Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cambiare, cambio vita, mollo tutto e vado via. Quante volte l'hai sentito dire dai tuoi amici, quante volte l'hai sentito dire dai tuoi parenti, oppure dentro te stesso che ti sei già detto, no, sono stanco di questa situazione, cambio vita e mollo tutto. Di' la verità. Infatti questo posto più o meno richiama anche questo desiderio di cambiare vita, andare via dalla città e mollare tutto. È vero, ma se cambi vita, quando vai dall'altra parte del mondo o dall'altra parte dell'Italia, cosa fai? Hai capito quali sono i tuoi punti di forza, hai capito quali sono i tuoi talenti, hai lavorato un po' con te stesso, quindi se hai iniziato a fare un percorso di sviluppo personale, probabilmente queste domande sono normali per te. I miei pupilli dormono per iniziare a parlare di tutti questi cambiamenti di vita che ci sono stati nell'arco di poco più di un mese. In questo video in particolare vorrei parlarvi del mio vecchio lavoro e del perché me ne sono andata. Da sempre avrei voluto fare l'avvocato. Quali sono i motivi per cui uno vuol cambiare vita? Beh, innanzitutto non è mai una esigenza filosofica interiore, viene da dentro, ma non prendiamoci in giro. Uno cambia vita se ha avuto una bastonata, se no, se la vita va bene nessuno pensa di cambiarla. Questo mi sembra lapalissiano. Quali sono le bastonate che ci fanno venire voglia di cambiare vita? Beh, innanzitutto problemi sul lavoro, finisce il lavoro, un fallimento di un'impresa, si viene licenziati, improvvisamente c'è una catastrofe per cui ti svegli la mattina e dici oggi che faccio? Questo è già un bel motivo. Secondo motivo, secondo me in ordine gerarchico, è la fine di un amore o di una relazione, di un matrimonio, di un fidanzamento, di una passione, ma essere di quelle toste che improvvisamente ti svegli la mattina e dici ma cosa campo a fare, la vita non ha più senso per me, non avrò mai più nessuno che mi terrà la mano, che mi farà fremere di lussure e piacere e che mi starà vicino, o che sarà il bastone della mia vecchiaia, o che si occuperà di me. E questo è ancora più rafforzato dal fatto che pensi non c'è più nessuno che lo fa a me, ma chi lo faceva a me lo farà qualcun altro, quindi questo è ancora di più un motivo per cambiare vita e scappare via lontani. Terzo motivo per cambiare vita: non sopportare più la molestia delle persone che si attorno. Non c'è niente di drastico, di drammatico, ma uno alla fine si scoccia, si stufa, si alza la mattina e dice ma chi me lo fa fare di sopportare queste facce da funerale tutto il giorno? E uno decide di cambiare vita, ma non cambia vita. Cambia vita quando c'ha un amo, un aggancio per fargli cambiare vita. Ecco. Tutto questo di solito lo pensiamo nella nostra vita in media 7,15 volte al secondo, però non lo facciamo mai, pochi lo fanno, e chi lo fa dice ah beato lui, ha cambiato vita, ce l'ha fatta, hai avuto coraggio. Chi cambia vita, cioè gli amici dicono beato te che ha avuto coraggio, io ormai dove vuoi che vado? Dico ma scusa, ma chi te lo fa fare di rimanere lì a marcire in quella casa con quella gente che ti odia, oppure a lavorare in quel posto dove ti sfruttano? No, sai, ormai così, c'è questa sorta di accettazione del destino. Ecco, chi in realtà non ce la fa da solo e pensa di dover rimanere tutta la vita nella sua vita, in quella che si è trovato già bella e fatta senza cambiarla, sappia che da oggi ci sono persone specializzate che hanno studiato, almeno questo immaginiamo, oggi ne avremo conferma, per aiutare a cambiare vita. Dei cambiatori di vita per professione lo fanno a pagamento, quindi già questo vi conforta del fatto che non è che sono così dei benefattori dell'umanità, quindi in qualche maniera promettono dei risultati. Come si chiama il cambiatore di vita? Boh, potete chiamarlo come volete, escape guru nel senso più metafisico e fideistico, escape manager nel senso più razionale legato a un'attività, escape coach se volete avere una visione olistica di questa cosa. Insomma, è uno che vi aiuta a fare armi e bagagli e andarvene via. 800 24 00 24, è la vostra grande occasione, oggi o mai più. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? E tu? Saresti capace? No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo come dissanguato. E così finisce il film. Oggi ha usato parte del prezioso tempo che lo separa alla morte un ascoltatore mandandomi questo SMS. Nicoletti oggi fa una trasmissione senza senso. Chiede agli scafisti come si fa a far cambiare vita alle persone disperate. Non è benestanti che fuggono dalle tasse. Qualcuno mi dovrebbe suggerire qual sia il senso profondo di questo SMS. Lo scafista non ascolta la mia radio. Se potessi parlare con lo scafista non mi rivolgerei certo in questi termini. I benestanti che fuggono dalle tasse. Non mi sembra di aver elencato la fuga dalle tasse fra i motivi che secondo me sono basilari per pensare a un piano B. Cosa vorreste cambiare della vostra vita? È lecito, anche se uno ha la fortuna, il privilegio, l'incommensurabile fortuna e gioia di nascere nell'Occidente post-industriale e benestante, di cambiare vita, perché è un diritto di cambiare vita. Allora, il piano B. Perché si fa un piano B? Cosa volete cambiare? Volete cambiare lavoro? Volete cambiare famiglia? Volete cambiare città? Volete cambiare condominio? Volete cambiare connotati? Cosa volete fare? Fare qualcosa che dalla mattina a sera state in panciolle e pigliate un sacco di soldi? Volete lavorare come matti? Volete darvi da fare per i poveri nel mondo? Volete cooperare per le persone bisognose? Questo è il quadro. Sono tutte cose che pongo come alternativa. Dove vorreste andare? Non vi va più di stare alla latitudine nella quale siete collocati e geolocalizzati negli ultimi 20 anni? Cosa volete? Un paese caldo? Un paese con l'aurora boreale? I ghiacciai? La foresta infinita? Amate il deserto? Ecco, tutto questo fa parte di possibili piani B. Piani B che probabilmente nessuno mette a punto, nessuno formalizza, semplicemente perché il quotidiano ci divora. Ecco, questo però è possibile farlo, o perlomeno sta cominciando a nascere nel piano, nel mondo variegato, multiforme, proteico dell'organizzazione aziendale, anche il escape coach, quella persona che vi insegna appunto a scappare. Sentiamo Carmine innanzitutto, poi vi lascio la sorpresa sul personaggio che abbiamo oggi. Carmine, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io, come stavo dicendo alla gentilissima operatrice che mi ha chiamato prima, vorrei semplicemente allontanarmi da una donna, mettere più chilometri possibile tra me e quella donna, perché dopo una relazione che, voglio dire, che si divideva tra amicizia e amore, cioè c'erano dei periodi di amicizia e dei periodi di amore furioso, cioè i periodi gli adava e i periodi no, questa è la sintesi. Vabbè, basta dire cose, ogni cosa ha il suo nome. Va bene, e succede. E quindi? Quindi lei è sotto ricatto nel periodo dell'amicizia, appagato e concupiscente nel periodo dell'amore, si è stufato di questa altalena. Sì, no, non mi sono stufato io, si è stufata lei. Perché è stata lei che mi ha mandato un SMS in cui mi ha ingiunto di non contattarla più, di non cercarla più. Vabbè, lei non è contento, ne piange. Qual è il problema? Dopo una relazione di quasi 20 anni. Le manca. Certo. Ma le manca più il periodo dell'amicizia o il periodo dell'amore? Posso essere sincero, mi manca più il periodo dell'amicizia. Beh, non bari con me, su. No, non sto barando, le giuro. Mi manca più tenerle la mano guardando un film alla televisione che andare in camera da letto con lei. Ma anche questo le nega, anche di poter guardare un film insieme in televisione? Sì, ha detto che proprio vuole alterare completamente i rapporti, ecco. Vabbè, la televisione è un po' monotona, diciamo, negli ultimi 20 anni. Hanno ripreso anche Pippo Baudo a fare Domenica Inn, quindi... Vabbè, noi andavamo anche al cinema, andavamo anche al teatro, cioè facevamo altre cose. E adesso come si sollazza questa signora? Come passa il suo tempo in sua assenza? Ah, non lo so, io ho rispettato il suo volere, non la chiamo più. Resti lì, Carmine. Non so se questa è la fattispecie, però mi sono affidato al caso. Monica La Saponara, buongiorno. Buongiorno. Monica La Saponara, le do subito un compito ingrato. È un ex manager che ha lasciato il suo lavoro, almeno leggo nella rassegna stampa che la riguarda, e insegna agli altri come fare a cambiare. Cambiare tutto, mi sembra aver capito. Cambiare lavoro, cambiare vita, cambiare situazione esistenziale, cambiare città e via dicendo. Quindi lei, qual è la definizione giusta della sua professione? Escape coach, guru, manager, cosa vuole essere chiamata? Come vuole essere chiamata? Allora, preferisco essere chiamata escape coach, visto mi sono formata per farlo, quindi va bene così. Quindi, guru mi sembra un po' troppo. Per far capire, l'ho letto, i giornali poi esagerano sempre. Sì. Quindi lei si è formata per aiutare le persone a fare questo passo, è sempre difficilissimo farlo le proprie forze, di dare un cambio. Esatto, io ho iniziato appunto, siccome ho deciso di lasciare il lavoro, e dico innanzitutto che non è mai una decisione semplice, soprattutto non bisogna mai farlo in maniera veloce e inconsapevole. E quando poi ho cambiato, appunto, ho lasciato il lavoro, e ero entrata in contatto con un'organizzazione inglese che si chiama Escape the City, dove la City in questo caso è proprio la City londinese. Quindi esiste una disciplina nel campo dell'ingegneria, dell'organizzazione della vita, esatto, delle persone, che si chiama proprio la maniera di far scappar via, ecco, detto tradotto, esatto, parole poi. Dove scappar via non vuol dire necessariamente andare ad aprire un baretto ai Caraibi, no? Certo. Vuol dire semplicemente, io quello che, diciamo, la definizione che do di quello che faccio è: cerco di insegnare alle persone che la vita è troppo breve per fare un lavoro che non ti piace. E quindi sostanzialmente quello che si fa è ascoltare le storie personali di ognuno, perché ognuno ha un vissuto, ognuno ha una disponibilità. Ma lei, scusami, economica. Scusi, Monica La Saponare, mi chiarissimo. Sì. Ma quando le capita una persona come Carmine, che ci sta ascoltando con il cuore distrutto, da che parte prende, come approccia, diciamo, perché le capiteranno cose del genere, come approccia l'attività? A dire la verità, io mi occupo sostanzialmente di cambi di lavoro. Quindi Carmine, di vita intesa in senso lavorativo. Deve farsene una ragione. Sì, per quello dobbiamo, come dire, rinviare la persona in questo caso ad un life coach, o se esiste un love coach a questo punto, direi. Quindi Carmine, la liquido subito, così evitiamo. Mi dispiace, il nostro esperto si occupa di cambi di lavoro. A meno che lei decida che il cambio di lavoro può essere fondamentale per assorbire il cambio di amica, compagna, amante, è questo il caso. Mi dispiace veramente, non so come aiutarla. Quindi non lo cambierei mai. Il lavoro non cambierebbe mai? Mai, lo adoro. Però vedi, questo forse è il suo problema. Lei è così attaccato al lavoro che probabilmente la sua donna ha detto: troppo lavoro quest'uomo, e quindi, ahimè, non c'è niente da fare. Lei provi a pensare di cambiare lavoro, ma con un lavoro nuovo ne trova anche una nuova, e così se ne fa una ragione. Andrea, sentiamo Andrea, buongiorno. Sì, salve Nicoletti. Dunque, io ho un'esperienza, diciamo, a metà di cambio di vita, nel senso che io nel 2014, non potendone più che del lavoro, delle facce che vedevo, dei clienti, io ho una piccola azienda di commercio, del lavoro, della crisi, dell'Italia, delle facce che vedevo in TV, avendo una certa disponibilità economica, ho deciso di passare una settimana intera a Lanzarote, alle Canarie, dove già andavo da diversi anni, e ho passato una settimana a vedere case da comprare, una settimana, penso di aver visto un'80ina di case in 7 giorni, e poi? E alla fine l'ho comprata, e ho detto: fatta, vado, mi trasferisco. E poi diciamo, è mancato il suocero e la moglie ha cominciato a tirarsi indietro, e diciamo, poi è una ragione in più per seguire, è una scusa tipica, scusa, muore il padre, meglio, me ne vado, non c'ho più legami. No, muore il suocero, ma rimane la suocera a casa a Padova, sola. Da sola. Vabbè, no, scusi, ma di fronte all'idea di andare a vivere alle Canarie, mi spiega, il problema di una badante per la suocera non mi sembra... Ma purtroppo la suocera è molto giovane, ha 60 anni. Beh, se la porti dietro allora, scusa. No, diciamo che anche le figlie, l'idea di far crescere delle figlie piccole... Andrea, non ci prendiamo in giro. In questa scelta lei è solo, penso l'abbia capito. Lasci l'ultimo fardello, si chiama moglie, e se ne vada. Sono un vigliacco perché io continuo a tribolare qua a Padova, attorno al lavoro, alle cose, alle tasse, e mi godo solamente un mese e mezzo all'anno della mia vita nella mia bella casa di Lanzarote. Sì, ma scusi, è come quei poveracci che vanno a Cuba una volta l'anno e poi tutta la vita avvitano bulloni e pensano di aver fatto la botta di vita. Io non voglio consigliarla, ma le rimane soltanto Sant'Antonio, penso, come via di speranza, a meno che non abbia lei una escape coach a disposizione, che sentiremo tra un istante, però, perché mi serve di entrare più nel problema, perché già è ora che lasci la linea allo studio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ma cosa volete fare, cosa volete cambiare, dove volete andare, cos'è che non vi va bene, esiste la possibilità per rendervi più felici. Qualcuno mi scrive: non siamo americani che hanno bisogno di una guida spirituale anche per lavare i calzini, siamo abbastanza autonomi e autosufficienti da poter fare da soli. Noi italiani, aggiungerei. Certo, fisiologicamente l'autonomia è sempre stata la nostra caratteristica migliore, cioè più contraddistinto. Monica La Saponara, allora andiamo al punto. Io sto assaggiando, ho fatto un esperimento antropologico-sociologico, quello che è il senso di fuga. Mi chiamano molte persone, sì, ma come si fa a cambiare la famiglia, i bambini? Mi sembra che il desiderio innato di cambiamento, cambiare vuol dire essere dinamici, vuol dire rinnovarsi, evolversi, via dicendo, fisiologicamente e proprio per una sorta di fenomeno legato al nostro territorio, è ancorato e stoppato dal fatto che siamo fortemente legati a quello che comunque abbiamo accumulato nella vita, sia in disagio, sia in piacere, sia in positivo che in negativo. Mi comincia a dare qualche idea di quello che è il suo lavoro e qual è la maniera in cui lei può intervenire? Sì, allora, intervenire, io penso che innanzitutto mi sembra di capire che, siccome poi ci sono chiaramente delle molte persone che parlano del cambiare lavoro come se fosse un privilegio per pochi, una cosa importante è dire che in quella che è la mia esperienza, non, se vuoi davvero farlo, non serve, non è un blocco avere un mutuo, avere un figlio, averne tre o avere una situazione familiare difficile come il nostro Andrea. Ci sono mille modi per farlo, quindi dobbiamo un po' uscire dall'ottica dell'idea che ognuno debba appunto prendere, partire, andare via, nel senso che io lavoro molto sulla motivazione e noi siamo abituati a lamentarci, no? come popolo, e quindi a pensare che quello che l'ha fatto perché ha i soldi, l'ha fatto perché non ha figli, cioè cerchiamo sempre, no, di trovare in qualche modo una ragione. Le aggiungo, Monica, grande irritazione anche se qualcuno ci dice datevi da fare, la gente dice ma come io una vita mi do da fare, non trovo niente. Tutte le persone che hanno detto siete dei fannulloni, dei bamboccioni, gli sfaticati, non siete creativi, sono sempre presi le torte in faccia dalla gente che dice è una vita che cerco di cambiare lavoro. Vediamo di essere un po' concreti se possibile. Certo, allora il discorso è questo, il discorso è che tutti siamo convinti che serva una grande idea, no? Che serva l'idea del momento, che bisogna inventare il nuovo Facebook e diventare miliardari. Le persone che si rivolgono a me nella maggior parte dei casi sono persone che hanno dei problemi lavorativi, per cui come Andrea non gli piace l'ambiente lavorativo, non sopportano più i colleghi, a volte somatizzano, anzi quasi tutti somatizzano, però l'idea che li spinge, e sono quelli che ci riescono, è quello di fare qualcosa che abbia più senso, dove lì non intendo la beneficenza, non intendo semplicemente fare un lavoro o di utilità sociale, ma semplicemente qualcosa che ha più senso per loro, ed è lì che bisogna agire, cioè cercare di capire il lavoro che faccio io è attraverso le competenze di ognuno, che quindi sono quelle che si acquisiscono nella vita lavorativa, quindi quello che io effettivamente so fare e mi riesce bene fare nel mio lavoro. Sto capendo. Attraverso quello che sono poi come persone, quindi cosa mi interessa, no? Cosa faccio quando sto da solo, allora lì si cerca di fare un mix tra questo e si tirano fuori delle possibili idee. Le idee non sono necessariamente idee che hanno bisogno di soldi, di investimenti, cioè ormai abbiamo la fortuna di avere la possibilità con le nuove tecnologie di poter fare qualunque cosa, anche stando seduti sul proprio divano. Quindi è vero e non è vero, nel senso che è un po' difficile, vediamo di dare qualche esempio concreto, sennò la gente pensa che, diciamo, mi viene sempre a dire oggi c'è internet, queste cose qui, potete cambiarvi, non tutti hanno capacità, cognizioni, background per fare questo. Infatti una cosa importante è questa, cioè è definire anche che cosa la persona sa fare, vuole fare. Io faccio sempre un esempio, per esempio di una persona che quando lo racconto ai miei clienti hanno comunque tutti sorridono, però in realtà capiscono quello che voglio dire. C'è un americano che ha mollato il lavoro e ha deciso, sta diventando ricco facendo una cosa, vendendo online video in cui insegna ai gatti a fare la pipì sul water. Allora questa cosa è una cosa apparentemente folle, ok? Questa persona ha raccontato di avere due passioni, una sono i gatti e l'altra è che si manettava un pochino, no, facendo video. si è inventato questo videocorso che lui vende adesso a lezioni settimanali. Cioè, i gatti imparano a fare la pipì nel water, sì. Esatto, i gatti imparano a fare la pipì nel water. Chiaramente è un mercato amplissimo, perché c'è tantissima gente che ha dei gatti che vorrebbe togliersi, no? Ma anche, diciamo, anche questo, quella grossa, solo la pipì? No, solo per sapere che nelle lettiere... No, tutto. Quindi la lettiera non serve più. Che diciamo, allora, l'inquinamento olfattivo di tutte le case, chiaramente, che hanno dei gatti. La puzza di gatto che andare alla lettiera. Chi ha gatti non se ne rende conto, ma uno entra in casa di un gattaro, una puzza terribile. Dice, ma che è sta puzza? Ma no, è Cicci, Pallina, Ciccia Baffa, che hanno la loro letterina, ma è una cosa terribile. Esatto. Se invece il gattino va tranquillo, fa anche il bidet, fa. No, questo va da solo, chiaramente. Ah, se lo lecca da solo. Però per dire, questo è un esempio chiaramente paradossale, adesso ovviamente... Ma come fanno a tirare la catena? No, scusi, sono appassionato. A tirare lo scarico? Quello lo tira il padrone, Però voglio dire, lui ha risolto un problema, ha capito che c'era una nicchia di mercato e ha messo a frutto delle sue competenze molto banali. Ha fatto i soldi con questa cosa? Sta facendo i soldi con questa cosa, perché poi si è creato chiaramente una strategia di marketing in cui rilascia queste lezioni a distanza di tot giorni e quindi la persona si iscrive. Questo è appunto, quindi diciamo, è una lezione, è un e-learning a distanza, lo fa. Esatto. Quindi non si muove dagli Stati Uniti, tu vai lì, prendi la lezione, il corso. Sì, lui probabilmente è a casa sua e diciamo che ha la passione del gatto al punto tale di fare un corso online per insegnare a farla più nella tazza. È anche difficile poi protesti se il risultato non è proprio al massimo, talmente contento Certo. Quindi è strategicamente studiata bene la cosa, comunque va sempre bene. Esatto, e di esempi come questi ce ne sono tanti, delle persone che io conosco che sono riuscite a mettere insieme quelle che potevano essere delle passioni con delle competenze, quindi il lavoro diventa qualcosa che effettivamente poi ti piace fare. Io stessa ho messo a frutto quelle che erano le mie competenze nel campo del marketing, della comunicazione, ero interessata al cambiamento di vita, ero interessata a questo discorso anche quando lavoravo in ufficio, e quindi a quel punto ho messo insieme le due cose e ho tirato fuori questa idea, essendo poi stata la prima in Italia anche a farlo, che chiaramente diventa un business che io posso gestire perché ho già una base, no? Da cui parto rispetto Io direi onestamente, Monica Saponara, lei, diciamo, il suo corso di escape se l'è fatto inventandosi questo lavoro. Mi dicono tutti, è bravissima questa, perché si è inventata un lavoro e quindi, come quello fa fare la pipì dei gatti nella tazza, lei fa la escape coach, ha trovato un mestiere. Mi chiedono però anche un'altra cosa, vogliono sapere quanto costa alla fine questa consulenza, perché se più o meno, cosa c'è? Va a risultato, va comunque a consulenza, va a progetto, come funziona il corrispettivo che bisogna darle? Allora, voglio dire due cose. Innanzitutto che io, una parte del mio lavoro che svolgo ormai da un anno a titolo gratuito, è quello di organizzare degli eventi a Roma e presto spero anche in tutta Italia, che si chiamano Escape Mondays. È un modo per, come dire, riprendiamoci il lunedì, che è il giorno più funesto per chi vuole cambiare vita, e veniamo ad ascoltare storie di persone che vengono raccontate, che l'hanno già fatta. Quindi a quel punto noi abbiamo accumulato già decine e decine di ma chi lavora che prende lo stipendio, se non va a lavorare il lunedì gli tolgono il giorno dalla paga, nella migliore delle ipotesi. Li facciamo di sera. Sì, esatto, quindi li facciamo di sera in Pacata Broma, quest'estate li facciamo a Villada tutti i lunedì sera. Sì, ma lei questo come fa poi a mettere l'osso del prosciutto nella pentola, perché sei tutto gratis? E poi mediamente io quello che faccio è fare un percorso personalizzato, nel senso che la persona viene da me, mi racconta la sua storia, questo chiaramente non costa nulla, mi dice che cosa vorrebbe fare e poi in base a quello strutturiamo un percorso insieme di consulenze, che sono consulenze che vengono fatte o di persona o via Skype per chi non è a Roma, e che hanno un costo in base a quello che io ritengo debba essere, diciamo, la lunghezza del percorso. Poi chiaramente, ma anche in base al risultato, perché sennò si chiama psicoterapia. Allora la psicoterapia è un'altra cosa, e tra l'altro sono molto contenta perché molti clienti mi sono arrivati dagli psicoterapeuti che capiscono che questo non è il loro mestiere, perché chi non è mai stato in un ufficio e ha vissuto quello che si vive in un ufficio non può capire. Ne pensi, Monica, mi scrive una psicoterapeuta, penso Anna da Vicenza, dice come? Escape coach, tutti gli psicologi e psicoterapeuti in ascolto staranno avendo le convulsioni, serve formazione e professionalità per riuscire a aiutare qualcuno. Ve la state giocando fra lei e gli psicoterapeuti, chi deve incassare il budget di qualche poveraccio che non sa dove sbattere la testa? No, ma infatti guardi, io sono molto contenta perché proprio le dicevo, ci sono state due psicoterapeute che alle quali le mie clienti hanno detto che facevano questo percorso con me e che hanno detto benissimo, perché è una persona che è dentro quello che tu vivi ed è un'altra cosa rispetto alla psicoterapia. Cioè io faccio un discorso legato a quanto hai, quanto guadagni, paghi un affitto, hai un mutuo, ok, quali sono le, partiamo prima da chi sei. Quindi ti fa un budget individuale che non sanno far da soli. Sì, ma perché ci vuole, il problema è che ci vuole tempo, io dico ci vuole almeno un anno per, ma non basta un ragioniere, un commercialista per farsi fare il budget. No, perché molte persone fanno degli errori molto banali, tipo non lo so, mi dicono che non possono cambiare lavoro, poi però comprano 20 camicie al mese, no? E quindi lì diventa un po' difficile, perché chiaramente bisogna anche rimettere. Quindi hanno bisogno proprio di un'organizzazione, non si rendono conto di un'organizzazione. Io sono uno di questi, non so quanto spendo, un giorno mi chiamerà la banca, mi dirà solo che spendo pochissimo, sono una formichina, però il meccanismo generale è quello, difficilmente una persona ha chiaro, a meno che non sia professionalmente portato verso questa cosa, di avere un suo budget individuale ben preciso, anche familiare. Magari in questo sono più brave chi gestisce, diciamo, l'economia della famiglia, ma forse questo parte da questo il problema di base. Fermiamoci un istante, tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, dovevo dire che la case history che ci ha proposto Monica La Saponara, che è l'escape coach che abbiamo oggi al telefono, è perfettamente rappresentata su YouTube. Se cercate gatti che fanno la pipì nel water, trovate una miriade di gatti educatissimi, bravissimi, vanno lì, si siedono, si mettono gli occhiali, aprono il giornale, fanno le loro cosine e poi se ne vanno tutti tranquilli. Pietro, buongiorno. 800240024, chiamateci se volete cambiare lavoro o cambiare qualcosa nella vostra vita. Lei cosa ha fatto, che corso ha fatto per cambiare vita? Allora, io intanto ho sempre fatto il metalmeccanico, un lavoro che mi soddisfa, ho anche un buon stipendio, cioè quindi, lo stipendio di un metalmeccanico. Quindi non lo vuol cambiare? Non lo vuol cambiare? No, ho due figli, sono vedovo, ho fatto un corso di pizzaiolo perché mi piace fare da mangiare e a gennaio parto, mollo tutto e vado a Miami a aprire una pizzeria. E le conviene, secondo lei? Ha fatto i conti? Sì, mi conviene. E i figli a chi li lascia, chi li ammolla? I figli, quello grande ha già una sua vita, quindi quello piccolo deve finire gli studi, dopodiché mi raggiunge. Ha fatto un pochino di conti, visto che mi sembra aver capito da Monica La Saponara, che è la nostra esperta, che bisogna farsi un pochino di conti e capire quello che si lascia, quello che si può trovare. Lei lascia un lavoro fisso comunque? Sì, lascia un lavoro fisso. Per la teoria del famoso economista Checco Zalone, non si lascia mai il lavoro fisso, quindi è una scelta, è una scelta radicale. È una scelta radicale, basta, non mi sento soddisfatto del lavoro, anche se è 20 anni che lo faccio e voglio provare una cosa. Ma con che soldi l'apre la pizzeria? Si è venduto qualcosa con la liquidazione? Poi c'è la liquidazione, un po' un amico di Miami che facciamo le cose insieme. Ah beh, c'ha già un gancio a Miami comunque. Sì, certo. Come vede la sua vita futura a Miami? Non so poco l'inglese, ma non me ne frega niente. Quello, per me tre mesi voglia lo impara per forza. No, diciamo che siccome sono una famiglia fra virgolette di zingari, sì. Mio nonno proviene da San Francisco, mio padre dal Brasile, io ho girato un po' il mondo prima di lavorare, quindi non è per me un distacco enorme, soltanto la voglia di fare qualcosa di nuovo per vedere se trovo veramente. Non ha legami sentimentali, mi sembra di aver capito. Sono vedovo, la compagna... Vabbè, quello che vuol dire, uno può essere vedovo, avere sei amiche, 20 amanti... No, mi sono riaccompagnato e mia compagna mi viene dietro. Ah, si porta anche la donna dietro? Mi viene dietro, è gelosissima, guai se la mollo qui. Questa è una scelta estrema, però uno va a Miami, lascia il mondo, si porta dietro la fidanzata, è rischiosa la cosa, comunque fa parte delle scelte individuali che io rispetto. Io pensavo che il cambio vita fosse totale, si porta la fidanzata italiana... E tutta la vita avrà comunque, ma questo non voglio mettere in dubbio la tenuta del rapporto, ma avrà sempre questa sorta di vertigine sull'orlo dell'abisso che poteva lei calcare fino in fondo se fosse stato solo fino in fondo. Monica La Saponara, questa ultima scelta rientra, diciamo, nel target di persone che lei analizza? Sì, mi sembra che è una persona che ha un atteggiamento giusto e che soprattutto ha superato lo scoglio più difficile, ossia quello della paura, che è quello che blocca tutti, no? La paura di non farcela, la anche paura perché di non... con rispetto parlando gli è morta la moglie, quindi diciamo l'ostacolo più grosso che di solito ferma un uomo nel fare cambiamenti l'ha già risolto il Padre Eterno. Diciamo di sì, dai. Però no, mi sembra veramente che sia l'atteggiamento giusto, soprattutto perché ecco, non abbiamo sentito in lui la cosa dell'esigenza del vado a fare più soldi, ma vado lì perché voglio stare bene. Cioè, questa è un'altra cosa importante che dobbiamo tenere a mente riallacciandoci poi al discorso di prima. È ovvio che si guadagna di meno e si vive con meno se poi si fa un lavoro che non è, soprattutto come nel mio caso, no? Io ero dirigente, quindi avevo un ottimo stipendio, l'altro aziendale, io adesso non è, faccio anche altri lavori oltre questo. Però sì, però ogni mattina deve svegliarsi e inventarsi qualcosa. Prima lo stipendio arrivava. È un'attitudine mentale questa, è un'attitudine mentale, e io dico sempre che è molto difficile che qualcuno non riesca a trovare qualcosa che sia veramente più nelle proprie perché porte. Vede, sa, molte volte, Monica, il lamentarsi fa parte delle nostre capacità di compensare e di elaborare. È chiaro, chi si lamenta tanto però non rinuncerebbe mai al fatto che il 27 di ogni mese comunque c'ha lo stipendio accreditato, e quello sarebbe comunque qualcosa che non, a cui non potrebbe, vorrebbe mai rinunciare. E finché rimane attaccato a quell'idea, il lamentarsi, dico, fa parte di un rituale di elaborazione delle tristezze quotidiane. Violetta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, piacere di parlare. L'ascolto. Sì, allora io ce l'ho fatta senza l'aiuto di nessuno. Adesso mi trovo al confine della Svizzera, sono partita da Cagliari. Fa la contrabbandiera, cosa fa al confine della Svizzera? Ho chiuso un'attività commerciale. Ho sempre pensato che secondo me tutte le persone dovrebbero proprio cambiare. Cosa vendeva lei? Qual era la sua attività? Avevo arredamento per la casa. Ha chiuso però questo? Sì, ho deciso proprio di andarmene, io, mio marito e mia figlia. Proprio senza niente, non è vero che ci vuole solo coraggio. E adesso cosa fa in Svizzera? E cosa fa in Svizzera lei? Allora, io non sono in Svizzera, sono in Italia al confine. Dopo a un certo ho affittato la mia casa. Mm. Allora, prima di tutto ho affittato la casa. In Sardegna. Ecco. Vabbè, quella l'ha affittata bene. Vabbè, con quei soldi non tanto, comunque ci vuole molto coraggio. Con quei soldi poi sono andata a vivere in un paesino piccolo. Dopo 6 mesi abbiamo trovato lavoro, tutti. A quanti abbiamo eravate? Completamente cambiato. No, mio figlio, mio marito e io. A tutta la famiglia stessa? Sì, abbiamo proprio cambiato vita. È stata veramente un'esperienza bellissima che consiglio a tutti. E uno non può vivere per tutta la vita. Quindi voi vi siete, diciamo, mantenuti il periodo di cuscinetto con l'affitto della casa in Sardegna? Perfetto, senza conoscere nessuno, senza l'aiuto nessuno. Cosa fate voi in Svizzera adesso? No, al confine. Vabbè, siamo sempre in Italia. Diciamo sì. Così, dice al confine. Sì, in quasi Svizzera. Praticamente, sì, abbiamo trovato lavoro. Io come rappresentante, mio marito come ristrutturatore e mia figlia lavora per un'agenzia. Vabbè, abbiamo fatto tutto da soli, senza l'aiuto veramente non conoscevamo nessuno. Ci vuole veramente tanto coraggio. Va bene, questa mattina non me l'immaginavo, abbiamo chiuso in una storia positiva. Una famiglia sarda decide, prende il coraggio a quattro mani, arriva al confine con la Svizzera, lì si ferma e lì apre una nuova vita in mezzo alle montagne, lasciando le brume e il mare burrascoso della Sardegna. Mi fa piacere, alla prossima.